Componimento 82° del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Io non fu d'amar voi lassato un guanco, Madonna, ne sarò mentre ch'io viva, ma d'odiar me medesmo giunto a riva e del continuo lagrimar so stanco. E voglio anzi un sepolcro bello e bianco, che l vostro nome a mio danno si scriva in alcun marmo, ove di spirto priva sia la mia carne, che può star seco anco. Però s'un cor pien d'amorosa fede può contentarve senza farne strazio, piacciavi omai di questo aver mercede. Se in altro modo cerca d'esser sazio, vostro sdegno erra e non fia quel che crede, di che amor e me stesso assai ringrazio. Fine del componimento.